La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 33 secondi, diretta qui dai sud di Milano di Radio 24, mercoledì 16 dicembre. Di che cosa parliamo in questo nostro appuntamento pomeridiano? Grazie per l'ascolto. L'indirizzo della versione di Oscar che ho radio24.it. Vi state scrivendo tutti o quasi in questi giorni per le banche commissariate, sto tentando di rispondere a tutti, fate anche domande su diversi tipi di prodotti, sto tentando comunque di rispondere a tutti, è un dovere ovviamente e a maggior ragione quando si incappa in guai di queste proporzioni, quindi ribadisco, rispondo. Detto questo, di cosa parliamo oggi? Di un tema che stamattina mi ha molto colpito sui giornali, in particolare La Stampa è stato tra i quotidiani italiani quello che gli ha dato maggior rilievo, secondo me non sbagliando. È un tema che può apparire lontano dalle cronache quotidiane, cioè dalla lunga coda di polemiche che continuerà a lungo, vedrete, sulle banche. Stamattina un battibecco animato alla Camera tra Renzi e Brunetta, battibecco nel quale Renzi ha deciso di cambiare marcia, per esempio sui voti parlamentari per completare il plenum della Corte Costituzionale, ha deciso che non si contratta più con Forza Italia, ma ha fatto un'offerta ai 5 Stelle per la terna di nomi, vedremo, che non ha a che fare con i temi che sono al centro dell'ennesimo vertice europeo che si tiene domani e dopodomani su politica estera, immigrazione, antiterrorismo e così via, e che non hanno a che fare con la scelta di cui tutti i mercati sono in spasmodica attesa questa sera dopo le 20 da parte della Fed sul ritocco. Lo sapete, per la prima volta dal 2008 si ritocca verso l'alto, questo almeno il senso generale, i tassi di interesse americani. Sarà importantissimo capire come la Yellen li giustificherà questa mossa, perché la guidance data ai mercati farà capire qual è il livello di pessimismo su un'instabilità mondiale, prezzo del petrolio, deflazione che importiamo e così via. No, è un tema che ha a che vedere con, da una parte, i social media, cioè un'architettura di fondo strutturale ormai della nostra maniera di comunicare, di vivere qualunque evento ogni giorno, e i ragazzi, gli adolescenti. Perché? Perché l'Unione Europea, che a mio giudizio balbetta sulla politica estera, sull'immigrazione e così via, però in realtà l'Unione Europea ha trovato il tempo e il modo di occuparsi del seguente problema. Bisogna o non bisogna mettere un limite di età all'utilizzo di Facebook? Va bene il limite di 13 anni? Va bene il limite di 16 anni? Sotto i 16 anni è meglio evitare che i ragazzi vadano su Facebook? Naturalmente vedrete che la decisione, cioè l'indicazione data a livello europeo, cioè 16 anni, sotto i 16 anni, no, non è vincolante a livello nazionale, però pone un grande problema. Allora, innanzitutto mi sono detto, cerchiamo di capire, di spiegare a chi è a casa come qualmente l'Unione Europea ha competenze su questo, che senso ha che ci debbano essere delle indicazioni internazionali e poi nazionali stringenti sull'età degli adolescenti che hanno accesso ai social network. Nella mia esperienza qualunque divieto di legge su questo non durerebbe 5 secondi e non credo affatto, ma questa è un'opinione mia, che si arrivi a 16 anni senza usare i social, senza usare Facebook. Ma questa, ripeto, è un'opinione mia. Mi interessa sapere, ora che vi presento gli ospiti dai quali faremo spiegare innanzitutto come nasce e si incardina questa vicenda, che conseguenze ha, com'è che l'Europa si occupa di questo, come funziona altrove, e poi di capire da un altro esperto come la pensa alla luce della psicologia degli adolescenti, l'effetto dei social media e così via. Ma mi interesserebbe capire da voi che siete a casa, quindi telefonate all'800240024 oppure datemi l'opinione sul 3492386, a se siete favorevoli a limiti, insomma, di leggi, direttive europee, ma insomma degli stati sull'età in cui gli adolescenti hanno o meno accesso ai social network. Ma io no, però vabbè, magari voi sì. Secondo, comunque, per dirci come vi comportate voi se avete figli adolescenti. Allora, su questo tema telefonateci, diteci la vostra opinione. Avrete capito che io proprio sono radicalmente contrario a che gli stati si debbano occupare di questo. Capisco che ognuno abbia il suo programma educativo, ma capisco anche che è terribile tentare di imporlo ai ragazzi. Questo mi pare, cioè, 16 anni, ma a 16 anni c'è gente che ci dà lezione su come si usano i social media, ma già da un paio d'anni. cioè, ho dei compagni di figli dei miei amici che sono 14enni e 13enni che fanno con i social media delle realizzazioni audiovisive, non solo a sostegno di forme già di pubblicità pagate, ma che sono di una straordinaria qualità. Quindi a me l'idea che poi arrivi una direttiva europea e dica un 16enne non usi Facebook mi provoca una generale risata, però capisco che molti ritengano che possano esserci rischi educativi, eccessi, eccetera eccetera. Allora, per spiegarci questa faccenda di oggi abbiamo innanzitutto il giornalista della Stampa, il collega della Stampa, che appunto ha riempito una pagina intera di dati e di spiegazioni su come si nasce questa pronuncia europea, e io gli sono molto grato. Marco Zatterin, buongiorno e grazie Marco. Buongiorno a te, grazie per avermi invitato al tuo programma. Figurati. E poi abbiamo con noi, per approfondire l'aspetto, diciamo così, psicologico, educativo e quant'altro, quello affidato in realtà alla buona fede, alle buone intenzioni e soprattutto all'esperienza della dimensione educativa di ciascuno di noi come padre e come madre, il professor Giovanni Boccia Artieri. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, innanzitutto Marco, come nasce questa vicenda? Che tipi di poteri sono incardinati davvero in una pronuncia di questo tipo? Che effetti ha e come funziona altrove? Allora, la vicenda è più grande del singolo accesso a Facebook. Esiste un mercato dei servizi in Unione Europea ed esiste l'obbligo degli Stati membri di legiferare in modo di avere delle regole comuni per tutelare i diritti dei cittadini. La direttiva in vigore in questo momento risale al 1995, che come ricorderete era un momento in cui Internet muoveva i primi passi. In 20 anni il mondo è cambiato e allora gli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di scrivere delle nuove regole, ne hanno discusso per 4 anni. E ieri sera si sono messi d'accordo su quella che è la linea generale dell'approccio alla tutela dei diritti dei cittadini. Che cosa hanno detto? Anzitutto hanno aumentato la possibilità di ogni singolo cittadino di essere proprietario e titolare dei propri diritti. C'è una nuova definizione del famoso diritto all'oblio, cioè in che circostanze uno può farsi cancellare da internet. Ci sono delle questioni di tutela dei dati, quanto valgono, quando scadono, eccetera, eccetera. E poi c'è la questione dei minori. Qual è il problema? Il problema abbiamo è più volte, aspetta, ti interrompo solo per ricordare ai nostri ascoltatori che abbiamo parlato più volte in questa trasmissione ai conti della Belva al sabato di una grande questione relativa per esempio al cambio di idee che l'Unione Europea ha avuto rispetto al passato in relazione al fatto che con i cosiddetti over the top non ci sia un'adeguata tutela della privacy dei dati di loro utenti in europei, e questo è uno dei grandi temi su cui ci si confronta barra scontro sulla rete, chiusa parentesi. È proprio così, il problema è che i governi, gli stati europei stanno cercando di stabilire delle regole più o meno omogenee per la protezione dei loro cittadini, visto che il mercato è unico. Il problema dei social network, cioè Facebook, Instagram, Snapchat, eccetera. Esatto. In questo momento vale la legislazione americana, cioè in America bisogna avere 13 anni o sotto i 13 anni il consenso dei genitori. Si è aperto un dibattito europeo e sono usciti punti di vista differenti. Ci sono paesi come la Polonia che vorrebbero 18 anni e altri paesi come il Regno Unito a cui i 13 vanno benissimo, gli ungheresi vorrebbero i 16. Grande dibattito europeo e alla fine il compromesso. Questo dibattito è stato un dibattito a livello di governi? A livello di governi, sì, perché in Europa le leggi le fanno i governi. Esatto. No, ricordiamola a chi è in ascolto, perché magari credono che sia il Parlamento europeo. Ecco. No, il Parlamento europeo insieme con i governi. C'è stato un trilogo, sono i due autori, come se avessimo due camere, un sistema bicamerale. Abbiamo da un lato il Parlamento e da un lato i governi. Non esiste un eurocrate pazzo che decide dei nostri destini. Sono i politici, quelli del Parlamento e quelli dei governi. Detto questo, c'è un problema di stabilire l'età del consenso, fino a che punto i ragazzi e gli stati hanno punti di vista diversi. Parlamento e governo hanno detto fate voi sostanzialmente, chi vuole, il riferimento sono i 16 anni, ma se un paese vuole mantenere i 13 potrà mantenere i 13. Però il riferimento sono 16 anni. Sì, però è libero, quindi è una formula puramente. Qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui ognuno di noi sottoscrive un accordo con un social network, si creano delle implicazioni anche giuridiche, perché se i miei dati vengono utilizzati in modo truffaldino o i tuoi dati vengono utilizzati in modo truffaldino, il fatto che io abbia 13 anni, 16 anni o 18 anni è differente, perché ricordiamoci che secondo la legge italiana tutti quanti i contratti sotto i 18 anni non sono liberi, non abbiamo la libertà, quindi c'è un problema giuridico di stabilire un riferimento. E poi il dibattito è interessante, ma questo sarà per la seconda parte, per vedere che cosa pensano le famiglie. Io personalmente sono molto sorpreso, il mio giornale in questo momento, La Stampa, ha sulla sua home page un sondaggio, esatto, l'Unione Europea ha innalzato da 13, siete d'accordo? L'86%, per quello che vale, di quelli che hanno votato hanno detto che sono d'accordo, sì, vanno bene i 16 anni, quindi c'è una gestione prudente almeno dei 5.000 errotti che hanno votato sul nostro sito. Io l'ho visto, non mi sorprende da una parte, perché credo che, diciamo, l'età media di chi durante il giorno risponde a quei sondaggi sui siti dei quotidiani non sia esattamente quella dei ragazzi giovanissimi. Dall'altra mi interrogo, perché la realtà che vedo tutti i giorni dei figli miei amici, ho figlio piccolo, quindi non fa testo, ma è una realtà alla quale riuscirei veramente poco a capire come si cala questa roba. Quindi ci vorrebbe un regime autorizzativo, bisognerebbe stare dietro. Naturalmente c'è il problema delle fake identity, cioè si potrebbero creare, sono capacissimi di crearsele come quando vogliono. Quindi però tu ci hai spiegato, c'è un problema di tutela legale anche poi rispetto ai loro dati, e questo è uno degli aspetti fondamentali. Naturalmente l'Europa anche qui, come avrete capito, cari ascoltatori, è in ordine sparso, per così dire, le opinioni. È flessibile, dai, ecco, non è flessibile. È ordine sparso. Cerca di rispettare le esigenze di un singolo paese, perché se avessero deciso 16 certo, e basta, questo è un modo per cercare agli stati membri di fare quello che preferiscono e di dare un ordinamento. È molto flessibilità. È molto Roma in questa trattativa che posizione ha tenuto? Allora, durante la trattativa la posizione del governo italiano era che il 13 andava bene, ma non c'erano obiezioni sui 16. Sì. La cosa da verificare interessante sarà se nel momento in cui questo impianto normativo verrà attuato, quindi cioè nei prossimi 2 anni, perché questi sono i tempi della democrazia europea, se l'Italia deciderà di tenere 13 o 16, ma in questo momento personalmente non lo so. Però intanto questo è il quadro del dibattito europeo che c'è stato, è l'indicazione che è venuta, di intelligente flessibilità, diciamo così, però è un dibattito, si spiega così anche perché si occupino di questo, perché c'è un problema di tutela legale nei confronti poi di piattaforme che sono soprattutto, non solo, ma insomma le maggiori sono quelle americane, per così dire. Allora, col professor Giovanni Boccia Artieri iniziamo a introdurre il secondo argomento. Il professor Artieri insegna sociologia dei nuovi media all'Università degli Studi di Urbino. Dal suo punto di vista, questo dibattito, professore, cosa ci dice, al di là della questione legale, cioè che abbiamo spiegato, sia pur sinteticamente, dal punto di vista di quello che ha visto, studiato, approfondito in questi anni, del rapporto tra queste fasce di età giovanili e Facebook e i nuovi aggregatori, insomma, social e new media, che senso può avere una indicazione normativa di questo tipo? Un'indicazione normativa di questo tipo non ha nessun tipo di senso. Ecco. Vorrei dirlo così, in maniera lapidaria subito. Cioè, sì. Dal punto di vista normativo probabilmente produce senso e, come dire, andrebbe spiegata allora perché la libertà rispetto all'età, perché se invece la funzione è educativa, allora da questo punto di vista non ha alcun senso. Partiamo da un esempio molto semplice. Cosa succede se un ragazzo che ha meno di 13 anni oggi si vuole iscrivere su Facebook? Basta dichiarare una età falsa. Cosa succede con i 16 anni? Li spingiamo, come dire, a dichiarare un'età falsa per più anni, perché questo è il tipo di problema con cui ci scontriamo. Cioè, noi abbiamo, come diceva lei prima, degli adolescenti che per stare vicini al gruppo di pari, cioè ragazzi della loro età, utilizzano una serie di piattaforme, perché nei quotidiani abbiamo visto parlare di quelle più note, certo, al mondo degli adulti, sì, ma in realtà ci sono tutte le altre che sono più note al mondo dei ragazzi, ne diceva una prima, Snapchat oppure WhatsApp, che forse è comune alle due generazioni, come dire, a varie tipologie generazionali. Sì, WhatsApp è un po' un bridge, secondo me, tra generazioni. È un po' un bridge. Ecco, proprio quello, cosa succede nel momento in cui viene utilizzato nella quotidianità per stare in contatto con i propri amici? Allora, il problema qui è chiarire questo tipo, le esigenze normative da una parte, mentre ci sono le esigenze culturali e delle pratiche dalle altre. Ricordiamoci che le ricerche ci dicono che la maggior parte delle persone che indicano ai loro figli di mentire per entrare su Facebook sono proprio i genitori, dicendo ma è un problema tecnico. Uso una data. No, ma ne conosco tanti. Insomma, allora, da questo punto di vista, che tipo di segnale diamo? Nel momento in cui votiamo su un sondaggio per innalzare, come dire, l'obbligo dell'età, non è un modo di per responsabilizzarci per più tempo, invece di in qualche maniera assumerci una responsabilità? Lei dice di responsabilizzarci dal punto di vista genitoriale? Come genitore o come educatore? Sì, perché fondamentalmente noi possiamo dire, ti serve un'età più adulta, però non funziona come l'automobile, cioè non è che poi devono conseguire un esame e avere una patente per entrare. Cosa succede quando si arriva a un'età più adulta? A 16 anni hanno più consapevolezza? Beh, probabilmente bisognerebbe cominciare a parlarne prima, e tutte le ricerche ci dicono che i livelli di responsabilità, come dire, dipendono anche dal fatto di responsabilizzarli all'ingresso lì sopra, anche appunto a un'età adolescenziale, e perché gli permette di sviluppare abilità critiche, le capacità autoespressive. Prima parlava di ragazzi che conosce, che appunto creano contenuti, li condividono, eccetera, e imparano a gestire se stessi in un ambiente online. Voglio dire, noi faccio un esempio concreto, sia a Marco che a Giovanni Bocciartieri. Noi nel ciclo di trasmissione dell'anno scorso qua abbiamo ospitato ciò che i ragazzi di un liceo romano che avevano ospitato nel liceo il restauro di una grande opera di un grande pittore napoletano del 600, che come cantiere aperto si era tenuto nel loro liceo, e hanno tirato fuori, non era un concorso a premi, era semplicemente per la loro capacità espressiva, delle forme di socializzazione virale sui social con dei video, con della musica eseguita da loro, eccetera eccetera, che erano, a mio giudizio, ma a giudizio di tutti quelli che le hanno viste anche dal ministero, uno spettacolo, e che dimostravano, erano semplici ragazzi di liceo, non è che non erano nemmeno di un istituto belle arti, semplici ragazzi di 14 anni, 15 anni, dimostrando una capacità autorealizzativa, non dico professionale, ma semiprofessionale, di cui la stragrande maggioranza dei miei colleghi giornalisti, lo dico con autocritica, non sarebbe affatto capace. Erano tutti 14 anni e 15 anni. Lo dico qua e mi fermo, perché a queste osservazioni di Giovanni Bocciartieri mi interessa, dopo la pausa di un minuto sull'informazione stradale, sentire l'opinione di Marco Zatin, questa volta non come giornalista raffinato ricostruttore di quello che avviene in sede europea per noi in Italia, ma appunto come uomo della sua generazione, padre, amico di altri padri, cioè come si comporterebbe lui di fronte a questo, tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di questo dibattito in sede europea, un confronto, come avete sentito, che è durato anni, perché si tratta di mettere insieme le norme sul mercato dell'offerta dei servizi internet, e c'è anche questa questione: quali limiti di legge legale per migliorare la tutela legale dei dati dei ragazzi indicare. L'America dice 13 anni, fino a questo momento anche in Europa dicevamo che noi 13 anni come indicazione, c'è un'indicazione adesso europea verso i 16, ma è flessibile, quindi ogni paese vedrà se tra i 13 e i 16 che cosa decidere. Tu Marco, scusa se te lo chiedo, come ti regoleresti? Come ti dico, come mi sono regolato io. Ho un figlio che ha 20 anni fra poco, che è sempre stato sui social network. Io non l'ho mai controllato, perché ho sempre ritenuto che lui presumibilmente facesse le cose giuste. È un ragazzo che è cresciuto bene, è un ragazzo che ha fatto tante cose su internet, che ha giocato, magari avrà fatto anche qualcosa, tra virgolette, di vietato, però io ho sempre avuto fiducia in lui e non ho mai controllato. Di qui ho tratto l'esperienza che se ci sono le famiglie, se i genitori fanno il loro vero problema, alla fine le leggi diventano un atto puramente giuridico e legale. Il problema si pone quando i genitori non ci sono o non fanno il loro mestiere, perché io ho sempre tenuto un occhio indiretto su mio figlio e mi sembrava che le cose andassero bene. Alla lunga, per ora è andata tutto quanto bene. Io per esempio rivelo a te e a tutti che il mio grande terrore, proprio grande terrore, avendo un figlio piccolo, io lavoro tanto, faccio più di un mestiere e quindi lavoro tanto. Mia moglie anche lavora, e lavora intensamente, con una cosa, insomma, impegnativa. Io ho francamente il terrore, lo dico adesso, non riguarda solo internet, riguarda tutto, perché è ovvio che bisognerà che modifichi la mia vita, perché altrimenti dei figli poi finirò per trascurarli. Però il problema è che oggi con coi device, quelli ce l'hanno sempre in mano, quindi per quanto possa modificarla non credo in nessun modo, non sono interessato per carattere, ma non riuscirei mai a controllare, credo che non lo farò minimamente, quindi ma mi non pongo devi il controllare, problema. Devi cercare di passargli dei messaggi, esatto, dei valori. No, questo lo capisco, questo lo capisco, beh, benissimo. Questo è il messaggio. Naturalmente poi lui poi c'è la scuola, l'interazione del mondo, l'imprinting oggi che lasciamo. Ci vuole fortuna. Che ci vuole anche molta fortuna. Però detto questo, sentiamo un po' di ascoltatori e poi torniamo alle vostre valutazioni di quello che ci dicono gli ascoltatori. Cominciamo con Fabrizio da Pistoia. Fabrizio, prego. Sì, salve, buonasera, mi sì. sentite? Sì, sì, la sentiamo benissimo, vada. Salve, buonasera signor Giannino. Niente, io volevo dire questo, è che ad oggi mi sembra che i giovani utilizzino i social network o i media digitali in generale un po' come un'estensione della realtà, un po' un modo per avere una realtà aumentata. Quindi per questo motivo una legislazione del genere lascia un po' così perplessi. In verità preferirei parlare di cosa fa la famiglia o cosa fanno i genitori sì. nei confronti dei figli. Cioè, se io ai miei figli, ora ancora non ho figli, ma mi immagino se io insegno ai miei figli il valore della responsabilità, allora probabilmente questi strumenti verranno utilizzati anche in modo responsabile, anche se questo comporta utilizzarli per estendere la propria realtà. E quindi ecco, allora visto che ci siamo facciamo anche una legge per obbligare i genitori ad essere responsabili. Vabbè, quello perché ha il buon senso, non mi meraviglierei se nell'ipertrofia normativa arriveremo anche a questo. In realtà ci sono delle leggi che fanno discendere conseguenze da una valutazione giuridica della capacità dei genitoriale parentale di esercitare le proprie funzioni, quindi ci sono già, volendo, di fronte a delle segnalazioni il giudice dei minori può intervenire e fare molte cose da questo punto di vista, quindi non è che non ci siano. Dario da Roma, come la pensa Dario? Buonasera Oscar, buonasera ai suoi ospiti e agli ascoltatori. Io sarò telegrafico, ho 35 anni, ho due sorelle meravigliose, una di 11, una di 13 anni. Riporto testualmente le parole di mia sorella piccola di 11 anni, la quale mi ha detto un paio di settimane fa: guarda Dario, Facebook è antiquariato. Ora, questo parola mia. Questo per dire che in realtà c'è un universo di attenzione che i ragazzini rivolgono nei confronti dei social media che è già completamente diverso da quello verso i quali noi stessi non ci occupiamo generalmente. Non c'è dubbio. Si vede anche nei numeri di Facebook questa cosa, tra l'altro. Esattamente, le statistiche medie dell'età, esatto. E quant'altro. Altra questione è, come dire, la necessità di una sorta di rialfabetizzazione dei ragazzini rispetto a come si usano i social, una questione più ampia, ma rispetto ai limiti d'età, come dire, sono già interessati ad altro. Un tema sul quale l'età media, cioè la parabola evolutiva della media di chi oggi è corpo docente dalla scuola primaria, secondaria, terza, non ha gli strumenti per farlo, tra l'altro. Nella media, abbiamo ospitato la scorsa settimana il caso di una scuola qua nella periferia di Milano che era fuori dalla media, sto dicendo nella media. Sentiamo Sergio da Milano come la pensa. Sergio. Sì, buonasera Giannino. Allora io due cose. Mi farebbe molto ridere se ci fosse qualcosa da ridere, questa volontà di voler legislare ad ogni costo anche l'ultimo anfratto della nostra vita. Da quanto devono essere dritte le banane, a quanto devono essere grandi le vongole, a quando dobbiamo dire ai nostri figli di accedere o meno a internet o quant'altro. È come se all'epoca di mio nonno, sto parlando, mi dicessero: c'è una legge per cui tuo figlio non si potrebbe allontanare da casa più di 5 isolati. Ok, e questa è la critica all'ipertrofia normativa. La seconda sua osservazione? Faremo un brutto regalo ai nostri figli se delegassimo tutte le cose che sono compito della famiglia e dei genitori a qualsiasi stato o super parte di stati. Questo è il mio pensiero. Grazie. Posso rapidamente chiedere un minuto a testa a Giovanni Bocciartieri e a Marco Zatterin. Immagino che non sia sorpresa dell'osservazione dei nostri ascoltatori, professor Artieri. Purtuttavia è vero che l'apparato formativo pubblico questi strumenti non li dà ai giovani, cioè quelli di responsabilizzarsi, o li può dare secondo lei? Sì, questo è un problema molto, molto grave. Sì, li può dare, intanto incorporandone l'uso all'interno della quotidianità, fondamentalmente, visto che le competenze, le skill, così come si dice, ce li hanno gli studenti, perché non è solamente Facebook, parliamo di Instagram, certo. Snapchat, altre cose che appunto verranno normate, che riguardano invece già la loro contemporaneità, e l'altra cosa è che comunque glieli possiamo dare in termini di senso, cioè gli adulti li possono aiutare a capire, come dire, il senso dell'abitare un ambiente digitale. Allora, la fermo qua, perché questa è una bella sfida per la buona scuola sul serio. Marco, diciamoci la verità, noi rappresentanti dei vecchi media ci abbiamo una responsabilità anche noi di esserci persi i giovani per strada. Sì, forse sì, certo, forse bisognerebbe essere più moderni, però visto che sono d'accordo con voi, se mi permetti di usare i miei 50 secondi per un'altra cosa, perché non per difendere l'Europa, ma per una corretta informazione. Giusto. L'Europa non ha mai chiesto all'Italia di ridurre la dimensione delle vongole. È stata introdotta una normativa europea e per l'Italia è stato recepito il decreto presidenziale firmato nel dicembre 1968 dal presidente Saragat. Allora io ti ringrazio. I 25 mm ci sono dal 68. Allora io ti ringrazio perché questo è uno dei più triti luoghi comuni che ricorrono sempre, purtroppo. Guardate che il più di questi esempi sulla famosa Europa lunare, il più ha dietro esattamente una storia vera come quella che vi ha ricordato adesso Marco Zatterin. Allora, grazie ai nostri due ospiti, grazie a tutti, appuntamento con me domani mattina alle 8:15 con Attenti a noi due con Alessandro Milan.